Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È uno degli scrittori israeliani più famosi ed è molto amato in Italia. Parliamo di Amos Oz. Sono suoi romanzi come Non dire notte, Una storia d'amore di tenebra e l'ultimo Scene di vita nel villaggio, tutti tradotti da Elena Lowenthal e pubblicati da Feltrinelli. Amos Oz è anche impegnato politicamente ed è da sempre sostenitore della teoria di due popoli, due stati per risolvere la questione israelo-palestinese. Ma, e lo sentiremo nell'intervista, non vuole che la politica entri nei suoi romanzi. E a proposito dei suoi romanzi, Oz ripete spesso: se dovessi dire in una parola di cosa scrivo, direi le famiglie. Se dovessi dirlo in due parole, direi le famiglie infelici. Ma perché sceglie sempre appunto le famiglie come oggetto della sua narrazione? Sentiamo che cosa ci ha risposto Amos Oz nel nostro incontro al Festival Letteratura di Mantova. I find the family the most mysterious institution in the universe. Trovo che la famiglia sia la più misteriosa istituzione del mondo. L'istituzione più paradossale del mondo, la più comica e la più tragica. Per millenni abbiamo sentito questa profezia che la famiglia sarebbe scomparsa, ma non è scomparsa. E così io penso che non ci sia soggetto al mondo sul quale sia così esaltante scrivere come la famiglia. Che tipo di sentimenti le piace più indagare proprio nelle dinamiche familiari? Tutti i tipi di sentimento. Provo a descrivere un'immagine unitaria della vita familiare: armonia, disarmonia, rabbia, amore e gelosia. Tutto. In che modo la storia con la S maiuscola entra nella vita quotidiana delle famiglie israeliane, quelle che lei descrive nei suoi libri? Well, Israel is a land of refugees. Every family in Israel is a... Beh, Israele è una terra di rifugiati. Ogni famiglia in Israele è una famiglia di rifugiati da qualunque parte del mondo. Ci sono ebrei israeliani che sono scappati dall'Europa e ci sono ebrei israeliani che sono scappati da paesi arabi islamici. Ogni famiglia israeliana ha un rapporto di amore e odio con il paese d'origine. Anche gli israeliani nati in Israele continuano a portare dentro di sé questa ambivalenza nei confronti del vecchio paese. Ma nella vita quotidiana delle famiglie israeliane si sente il peso di quella che è la situazione politica? Certo, non solo per il terrorismo, ma perché la storia è qualcosa che accade nelle case di tutti, non attraverso lo schermo della TV, ma dentro la tua casa. Per ogni famiglia israeliana la questione politica è questione di vita o di morte. Ecco perché gli israeliani parlano sempre di politica, discutono sempre di politica. Ognuno è coinvolto nel futuro del paese perché il futuro del paese è una questione personale di tutti. Lei spesso ha detto che da piccolo voleva essere un libro, non uno scrittore. Perché? Sono stato bambino all'epoca dell'Olocausto in Europa e negli anni di grande insicurezza per il futuro della comunità ebraica a Gerusalemme. Avevo paura che prima o poi sarebbero venuti a uccidermi. Così pensai che se fossi stato un libro mi sarei salvato. Lei ha raccontato la sua storia personale, la storia della sua famiglia in un libro. In italiano il titolo era Una storia d'amore e di tenebra. Che rapporto ha con quel libro? Well, this is one of the most difficult books I ever wrote. È uno dei libri più difficili che io abbia scritto, perché ho scritto della mia famiglia e della mia vita personale. È stato duro scriverlo, ma mi ha dato una grande soddisfazione, una grande gioia averlo finalmente fatto. In un'intervista lei ha detto: non spreco un romanzo per parlare di politica, ma se la politica è così importante per un israeliano, perché non vuole appunto sprecare un romanzo? Perché se ho un messaggio politico, scrivo un articolo e mando il messaggio politico direttamente. Non voglio che i miei romanzi diventino un manifesto, perché se fossero un manifesto sarebbero pessima letteratura. Ovviamente i personaggi dei miei libri trattano argomenti di politica come qualsiasi israeliano. Parlano di politica, ma non necessariamente della mia visione politica. Che rapporto ha con la scrittura? I have very solid working habits. Ho abitudini di lavoro molto solide. Mi sveglio ogni mattina alle 5, faccio una breve passeggiata nel deserto dove vivo, bevo una tazza di caffè e inizio a scrivere. Scrivo tutta la mattina, quindi mi prendo una pausa, mi riposo e nel pomeriggio torno nel mio ufficio e distruggo cosa ho scritto al mattino. Qual è invece il suo rapporto con i libri degli altri? Quali sono le sue letture? Beh, quando leggo un libro e dopo 20 o 30 pagine ho la sensazione che avrei potuto scriverlo io, allora il libro non è buono. Apprezzo solo i libri che non avrei potuto scrivere. Per esempio? Well, I'll give you an Italian example. My all-time favorite Italian novel is Il Gattopardo. Farò un esempio italiano. Il romanzo italiano in assoluto che preferisco è Il Gattopardo. È un romanzo meraviglioso. In un solo volume rappresenta la vita di un intero mondo. Mi fa viaggiare in un altro mondo e mi sento a casa in quel mondo. È scritto molto bene, ogni frase, ogni parola è giusta. E dopo tutto, la grandezza di un romanzo non è nella trama, la grandezza di un romanzo è nelle frasi. Il suo nome è spesso in pole position per il Nobel per la letteratura. Come vive questa cosa? Se non riceverò mai il Nobel, non morirò come uomo infelice. E dallo scrittore israeliano Amos Oz veniamo al medico sacerdote Richard Freshet, che opera da 22 anni ad Haiti, dove gestisce case orfanotrofi e ospedali. Ha appena pubblicato in Italia per Rizzoli il libro Haiti. Gli abbiamo chiesto com'è la situazione ad Haiti dopo il disastroso terremoto di gennaio. Sentiamolo. È una situazione di 1,5 milioni di gente senza casa, homelessness, di molte gente che mancano acceso sanità e fame enorme, perché i piccoli strutture microeconomico sono distrutte, allora la miseria, la povertà è peggio, che era anche malo, ma è peggio. Questa è la situazione del momento, con tutti gli altri problemi che questo stress provoca, più di violenza domestica e kidnapping che comincia a aumentare ancora, eccetera. Che cosa sta facendo il governo locale? Penso che il governo sta in dialogo con molte organizzazioni e molti altri governi, provando di pianificare, e con tante opinioni non è facile arrivare in un piano, molto molto lento, e il governo per il momento non ha ricevuto il denaro promesso dagli altri governi per poter fare una cosa, e questo arriva a essere un circolo vizioso di perché non fanno, ma c'è molto tempo perso nel dialogo e ci sono molti fondi promessi che non arrivano, ma anche è il momento di cambiare il governo, che è peggio ancora perché non si mette troppo fiducia in un governo che finisce in 3 mesi e tutto l'interesse è nel scogliere altro governo. Quindi i fondi promessi dagli altri paesi non sono mai arrivati ad Haiti? Questo si può verificare su Google per vedere tutti i promessi di quale paese e quali sono pagati. Sono molti pochi che hanno dato su promessa. E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it, anche in versione podcast. Un saluto da Alessandra Tedesco.